I Veneti sono rappresentati da 2.700 aziende, 13.000 addetti e un export che vale circa 300 milioni di euro. Per noi è una grande occasione questo salone per mostrare le nostre produzioni, che sono in particolar modo di cucine, ma anche l'occasione per ricordare che stiamo affrontando nuovi mercati che stanno dando soddisfazioni. Quindi cresce l'export nelle aziende che internazionalizzano, soffre un po' il mercato domestico. I nuovi mercati sono rappresentati sicuramente da quelli che sono definiti i Next 11, cioè quindi tutti i nuovi mercati emergenti. Ovviamente confermiamo il tema del Medio Oriente, si conferma la grande la Russia e ovviamente anche il Nord Africa. La regione del Veneto ha dato vita a un fondo di accesso al credito che dà garanzie ai nostri imprenditori sul fronte dell'accesso al credito per 1 miliardo e 900 milioni di euro. Dall'altro stiamo per varare in queste ore il nuovo decreto dello sviluppo che si occuperà di promozione dell'economia e di tutto quello che è l'internazionalizzazione delle nostre imprese. Noi vogliamo mantenere la produzione in Veneto perché il Veneto è un Veneto ancora manifatturiero, ma una manifattura non qualunque, è una manifattura di qualità. Noi abbiamo conosciuto una nuova figura, il fallito con crediti. Una volta i falliti erano tutti pieni di debiti. Da un lato gli enti pubblici che a causa del patto di stabilità non pagano. Dall'altro, diciamolo pure, imprenditori che non pagano altri imprenditori. Bisogna agire sul fronte dell'accesso al credito, dare garanzie a chi in banca trova la porta chiusa, ma anche pensare che non si può attendere 7 anni e mezzo, questa è l'attesa media, per avere un giudizio in un processo dove tu avanzi soldi da qualcuno.